24 mattino. Irene Zerbini al posto di Alessandro Milano, 8:19, buona giornata. Anche e soprattutto se siete in coda, non perdetevi questa puntata di Soldi Dintorni. Ora parliamo di economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, un inizio un pochino misterioso questa mattina, intanto buongiorno. Non trovavamo l'ospite stamattina, adesso gli do anche una sgridata in diretta, no, naturalmente gli dobbiamo dare il benvenuto Irene, benvenuta anche a te soprattutto. grazie, oggi solo per sostituire Alessandro Milan, ma dicevamo soprattutto se siete in coda ascoltate esatto. Questa puntata di Soldi Dintorni, perché? Perché, no, tra l'altro quale miglior giornata del venerdì che fare insomma una trasmissione dedicata alla sicurezza dei nostri pneumatici, peraltro se ci fosse stata Alessandro. Alessandro, chissà quanto mi avrebbe preso in giro questa mattina. Tu sei una donna, non li fai mai controllare, tutte le donne non controllano mai l'auto. E abbiamo scoperto che invece ci sono anche molti signori che non controllano gli pneumatici. Io sono cresciuta di fronte a un rivenditore di pneumatici, quindi santo ti cielo. Pregherei di non infierire, di moderare queste tue illazioni. Un cambio di ruote prima e dopo i pasti, io non me lo sono mai negato. Benissimo, allora buongiorno a Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma, gruppo produttori pneumatici. Bertolotti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, vacanze sicure, quest'anno tra l'altro è bene parlare anche di questo argomento, a prescindere dalla campagna che voi avete organizzato, di cui adesso ci racconterà i dettagli, perché ci raccontano che in virtù della crisi economica molte famiglie italiane sceglieranno di fare delle vacanze più brevi, magari anche come dire, in termini di distanza, raggiungere magari dei posti un po' più vicini, quindi forse si sposteranno molto di più in macchina, dottor Bertolotti. E allora voi, come ogni anno credo, avete organizzato questo progetto Pneumatici sotto controllo, progetto Vacanze Sicure, non da soli ma con la Polizia Stradale Toscana e non so con chi altro, con quale altro attore, magari ce lo racconta direttamente lei, ma soprattutto con quali risultati? Ma io parlerei dei risultati. Polizia Stradale e Politecnico di Firenze sono stati gli artefici del consolidamento di questi dati. Ancora una volta sono emerse una quantità straordinaria di pneumatici danneggiati visibilmente. Stiamo parlando di quei pneumatici che hanno bozze, ernie, tagli sui fianchi, non solo sulle vetture, ce n'è una quantità importante per le vetture, 4, 5, 6%, ma addirittura sui van, cioè i furgoni, per capirci addirittura arrivano fino al 10%, ma l'effetto eclatante è dato dai controlli effettuati su carrelli e roulotte e caravan, dove ci sono delle percentuali elevatissime, parliamo di percentuali di pneumatici fuori legge sopra il 10%. E poi il colpo di grazia è dato dalle mancate revisioni. Addirittura il 75% delle roulotte controllate non ha fatto la revisione, i carrelli il 15%, ma anche le vetture, sembra che ce ne siano una quantità che, traguardata su scala nazionale, può essere stimata in circa 500.000 mezzi che non fa la revisione. Quindi paradossalmente a volte si può viaggiare anche con l'auto che può essere decisamente sicura, ipercontrollata, ma se decidiamo di attaccarci un camper per la nostra vacanza, paradossalmente potremmo anche esserci dimenticati di aver controllato quel mezzo che magari è stato fermo per tutta la stagione invernale, quindi le gomme si sono sgonfiate, tutto il mezzo insomma andrebbe ricontrollato. Dottor Bertolotti, può succedere anche questo con tutte le ovviamente problematiche legate ai rischi poi che si corrono portandosi dietro un mezzo come questo? Assolutamente, ma direi la prima cosa da fare è quella di controllare le gomme. Sono evidentemente, lo capiamo tutti, non occorre essere dei tecnici, l'unico punto di contatto tra il veicolo e il suolo, non solo la vettura, non solo la moto, non solo il mezzo pesante o il mezzo leggero, ma anche carrelli, ma anche roulotte devono avere controllati questi pneumatici da personale specializzato. Occorre effettuare sicuramente il controllo della pressione delle gomme, questo è un fatto fondamentale. Uno può scegliere il miglior pneumatico del mondo, ma se non è gonfiato a questo punto non avrà mai le prestazioni che quel pneumatico è in grado di offrire. Quindi questi sono i due passaggi fondamentali, poi occorre andare da un professionista, uno specialista in grado di intervenire soprattutto in caso di danneggiamenti sul fianco, perché attenzione, quando si ci si accorge che ci sono dei tagli, delle bozze, delle ernie sul fianco, ebbene correre dal rivenditore e farsi sostituire le gomme. Quella è l'anticamera di un cedimento strutturale del pneumatico che può venire in corsa. Anche se non ci dobbiamo dimenticare che naturalmente se anche abbiamo le gomme completamente nuove, prima magari di fare un lungo viaggio è bene magari fare appunto il banale controllo della pressione come lei ci ha indicato. Dottor Bertolotti, le faccio un esempio, non mi strigli in diretta, io ho un'auto che ha un anno circa e ci faccio almeno 1500 km al mese, controllo regolarmente la pressione e me lo faccio fare questo controllo anche dal benzinaio che è un amico, perché anche in quella sede si può fare questo controllo proprio di manutenzione super ordinaria, basta come accorgimento? Ma allora, innanzitutto i controlli vanno fatti da specialisti, il benzinaio fa un altro mestiere, molto spesso può non avere la strumentazione tarata ed è proprio per questo che il consiglio è di andare da gommisti che fanno questo tipo di controllo gratuitamente, ma è l'occasione poi per farsi controllare, e ancora una volta questa è un'operazione che viene fatta gratuitamente, l'intero complesso ruota, perché in quell'occasione si può uno specialista può rendersi conto di un'anomalia, ma pensate che ci sono persone che circolano gomme buche e non se ne rendono conto. Come si fa a rendersi conto di questo? Chiaramente si viaggia male, immagino, con il mezzo, non ci se ne accorge? Ma evidentemente per chi ha una certa dimestichezza e una certa sensibilità si sente immediatamente una perdita d'aderenza, un comportamento anomalo, un'alterazione del comportamento di guida. Però per chi fa dei piccoli tratti, usa la vettura in maniera del tutto saltuaria, questo può non accadere, ma può manifestarsi immediatamente l'improvviso cedimento quando uno meno se lo aspetta, e poi a questo punto il tempo è passato, non c'è più tempo per intervenire e si rischia veramente un incidente. Quindi senza paura, se poi non ci si fida di un primo parere, lo si verifichi anche da un'altra parte, secondo, esattamente come tutte facciamo le cose per qualsiasi prodotto, insomma. Verifichiamo. Non ci dimentichiamo anche, no, dottor Bertolotti, adesso la interrompo, che comunque trovandoci magari la polizia stradale ad un controllo con gli pneumatici che non sono a posto, rischiamo anche delle multe, a prescindere dalla sicurezza, che è comunque la prima cosa da tenere in considerazione. Non solo multe, ci sono multe pecuniarie, quindi sanzioni pecuniarie, c'è sottrazione dei punti di patente, si circola in autostrada, ci può essere il sequestro del mezzo, quindi c'è una serie di sanzioni che possono rovinare la vacanza, oltre che la sicurezza e quindi la tranquillità di una famiglia. Quindi è bene assolutamente fare questo tipo di controllo. Tra l'altro, nel caso in cui dovesse una persona arrivare nella determinazione di cambiare le gomme, si faccia rilasciare la carta d'identità del pneumatico, un documento che gratuitamente ovviamente, che è un documento che attesta, a prescindere dalla marca, che quel pneumatico ha determinate caratteristiche e fa partire la garanzia legale di 24 mesi. Benissimo, dottor Bertolotti, la ringrazio molto per essere stato con noi questa mattina, per averci dato queste informazioni utili. Per tutte le informazioni su questa campagna suggerisco ai nostri ascoltatori di andare sul sito www.pneumaticisottocontrollo.it. Se avessimo perso qualche informazione fondamentale, sicuramente la troviamo su questo sito. Irene, io ho terminato. Deborah, molto interessante la carta d'identità per pneumatici, soprattutto non sapevo della sottrazione di punti nel caso ti colgano in fra. Guarda, non si finisce mai di imparare, Irene, veramente. Sembriamo sempre tutti molto tranquilli di tutto, ma in realtà seguiremo le tue indicazioni. Invece a mezzogiorno a Salvadanaio, di cosa oggi ci occupiamo? Di nuovo di obbligazioni, ce ne sono tante sul mercato, ne stanno arrivando sempre di più, allora una guida ai nostri risparmiatori per poter scegliere bene. Adesso c'è una nuova iniziativa di patti chiari dopo l'incidente clamoroso di settembre di Lehman Brothers. E torniamo insieme 32 minuti trascorsi dopo le 8, Irene Zerbini al microfono e in primo piano naturalmente l'evoluzione delle bombe negli hotel in Indonesia, Jakarta. Gli attentati sono avvenuti in contemporanea contro gli alberghi di lusso della capitale e fino a questo punto il bilancio, che potrebbe aggravarsi però purtroppo come spesso succede in questi casi, è di 9 morti, 50 i feriti. Si conosce poco delle loro condizioni, non ci sono vittime italiane, questo è stato confermato dalla Farnesina, che ha escluso che ci siano appunto all'hotel Marriott Ritz-Carlton di Jakarta degli italiani. Ha anche precisato la Farnesina che sono in corso delle verifiche sulla nazionalità dei feriti. Da Jakarta a Roma, un'altra capitale, un uomo ha perso il controllo della sua autovettura, ha investito in pieno alcune persone alla fermata dell'autobus di via Cassia e c'è stato anche una vittima, un morto e due ferite. Ora sono naturalmente in corso le verifiche dei vigili urbani per ricostruire come questo possa essere accaduto. E ancora i sindacati si dividono sulle nuove pensioni, la CGIL ha detto no al piano del governo. Sgravi per le piccole imprese, sconto fiscale per chi rafforza il patrimonio aziendale. Nella pagina sportiva in primo piano per una volta il nuoto e non il calcio, perché oggi a Roma al via i mondiali Rosolino sarà un po' il portabandiera azzurro. Questo e tanto altro nel corso del nostro notiziario alle 9. Ora però parliamo di flussi migratori. Per una volta non ci concentriamo su chi parla un'altra lingua, ma di flussi migratori interni. Infatti, secondo il rapporto Svimez, negli ultimi 10 anni 700.000 persone sono emigrate dal sud al nord. Questa sarebbe una cifra senza uguali in Europa, che fa del mezzogiorno un po' la Cenerentola del continente. Ma è davvero così enorme questa cifra? È l'indicatore di un problema o è anche la constatazione che l'essere umano migra, che cerca nuovi approdi? Insomma, è un po' una caratteristica dell'animale uomo. Ma l'analisi dopo. Descriviamo prima la situazione grazie al rapporto dello Svimez. E con noi oggi in diretta il vice direttore Luca Bianchi. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Innanzitutto grazie per il suo tempo. Descriviamolo dunque, questo fenomeno dell'abbandono del mezzogiorno. Bianchi, quali sono le cifre e le regioni che soffrono della maggiore emorragia? Sì, le cifre sono quelle che lei ha citato, quindi sono 60-70 mila persone l'anno che tolgono la residenza nel mezzogiorno e la trasferiscono nel centro-nord. Le regioni da cui provengono sono un po' tutto il sud, quelle che più perdono popolazione sono quelle che soffrono più del mercato del lavoro, cioè la Campania, la Calabria, un pochino la Sicilia e poi un po' di meno la Puglia, la Basilicata. Comunque è un fenomeno che riguarda tutto il mezzogiorno e no, noi riteniamo che sia un fenomeno abbastanza rilevante e abbastanza grave, l'indicatore di un disagio sociale forte. Senta, stando alle cifre da voi pubblicate, nel 2004 un italiano, un laureato, diciamo così, con votazione massima proveniente dal mezzogiorno, nel 2004 si spostava altrove. Nel 2008 arriviamo dal 25% addirittura al 38%, quindi è un incremento addirittura della tendenza. Sì, c'è un incremento della tendenza dei laureati a spostarsi nel centro-nord per trovare lavoro, questo non c'è dubbio. E c'è una, diciamo, un laureato su tre del sud sostanzialmente trova lavoro nel centro-nord. E poi c'è una maggiore selettività negli ultimi anni, cioè in è aumentata senso? Molto la quota di quelli coloro che hanno conseguito un 110-110 lode. Vuol dire che il mercato del lavoro del centro nord è molto selettivo, richiede i migliori, e invece nel mezzogiorno non ci sono le condizioni per mettere a frutto quello che uno ha studiato. Istruiti e formati altrove, quindi con grande risparmio naturalmente, si prendono questo capitale, perché non dimentichiamolo, gli esseri umani, le risorse umane, è un capitale, si prendono queste energie e si utilizzano altrove. Lei mi diceva questo è un indicatore di un fenomeno di squilibrio che andrebbe non solo sottolineato, ma bisognerebbe intervenire. Brevemente, come avete valutato? Non abbiamo precisato, tra l'altro, per chi non fosse familiare col suo istituto, che cos'è lo Svimez, è l'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno e quindi un osservatorio privilegiato di questo tipo di fenomeno. Esattamente, noi siamo un'associazione ormai viva da più di 60 anni, abbiamo sempre fatto il nostro prodotto più importante, il rapporto annuale, noi monitoriamo l'andamento dell'economia del Mezzogiorno, monitoriamo l'andamento delle politiche. Nel rapporto infatti c'è un'analisi ampia in cui questo fenomeno dell'immigrazione è molto importante, ma noi lo leghiamo anche a una debolezza delle politiche pubbliche messe in atto in questi ultimi anni per ridurre il divario, diciamo, per aumentare la qualità della vita e la qualità di contesto delle imprese del mezzogiorno. Grazie, grazie Luca Bianchi. Passiamo dunque oggi all'analisi. Luca Bianchi, lo ricordo, è il vice direttore dello Svimez. Buona giornata. Passiamo all'analisi con il giornalista e scrittore Gian Antonio Stella, che ringrazio a sua volta per il suo tempo. Buongiorno, ciao Gian Antonio. Buongiorno a voi. E nel tuo libro Lorda tu esordisci dicendo che siamo tutti emigranti, è una sorta di sottotitolo. Cos'è, una constatazione filosofica, una constatazione socio-economica? Cosa vuol dire siamo tutti emigranti? Beh, siamo o siamo stati? questo è il punto, perché anche il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, che oggi sono terre di immigrazione, sono state terre di forte immigrazione, fortissima immigrazione. E noi vorremmo soffermarci sulle differenze, se ci sono, secondo te, tra quella immigrazione e quella attuale. Tra l'altro testimoniata anche in una canzone splendida di Paolo Conte. È sto naufragio d'intamelà. Se chiama un nome, immigrazione. Immigrazione significa terrore. L'amarezza di chi lasciava il sud in questo brano splendido. Ma secondo te è ancora così? Certo che così, lo dicono i numeri, lo dice un pullman che parte periodicamente, ma voglio dire con frequenza forte, da Agrigento, e non ha mai smesso di andare, non so se tutte le settimane o due volte a settimana addirittura, in Germania, e porta su gente che va a trovare parenti, ma porta su gente ogni volta che si trasferisce da tanto tempo verso la Germania, verso altri paesi e anche verso ovviamente il nord dell'Italia. Senti, l'Italia ha 61 milioni di italiani fuori dai confini, nel senso non tutti con passaporto, ma come oriundi, in qualche modo legati. Ne ha di più. Cioè, come li possiamo quantificare senza poter ricorrere all'anagrafe? Ma grosso modo diciamo che gli eredi degli italiani che sono fuori sono circa 110 milioni. Solo che molti di questi, certo, non hanno il passaporto e magari non ci tengono neppure ad averlo. Insomma. Comunque ci si aspetta da un bacino di questo tipo, da una nazione di questo tipo, un'inclinazione all'accettazione. Cioè, ci siamo passati noi in passato, dovremmo capire di più coloro che oggi devono lasciare tutto e reinventarsi una vita. Insomma, stando ai numeri, l'Italia dovrebbe essere tra i paesi meno razzisti e più solidali del pianeta, è così? Dovrebbe, ma non lo è. Però vorrei tornare al discorso dell'immigrazione dal sud, che mi pare particolarmente interessante. Io credo che il problema fondamentale sia un problema squisitamente politico, nel senso più nobile della parola, più corretto della parola. E cioè c'è una terribile, spaventosa mancanza di politica, c'è una terribile, spaventosa mancanza di ideali politici. Qual è il problema del Mezzogiorno oggi? Io credo sia un problema economico, credo sia un problema industriale, credo sia un problema di prospettiva, di progetto, perché poi, invece che essere un problema industriale potrebbe essere un problema del turismo, ad esempio. Cioè, nessuno va volentieri a fare le vacanze in un posto in cui rischia alcune cose che, insomma, che sono antipatiche o in cui vede un saccheggio del territorio, qual è quello che è stato fatto su alcune delle coste meridionali che erano assolutamente stupende. Il problema fondamentale, secondo me, qual è? È che non credono più nel Mezzogiorno le persone che vivono nel Mezzogiorno. Questa è la tragedia grande. C'è questa disillusione quasi. Di questo nostro paese. C'è una rassegnazione a destra e a sinistra. E il massimo che uno si può aspettare, che uno può chiedere oggi nel Mezzogiorno, è una decente amministrazione, un'amministrazione delle cose che ci sono, un po' meno sgangherata, cialtrona, ladra, clientelare, infame di quella che c'è stata. E già questo tempo crea in qualche modo soddisfazione. Sì, tu punti proprio il dito su questa disillusione che regna, su questa rassegnazione, quando invece servirebbe quasi, non dico un'utopia, ma una direzione, una leadership forte che faccia sì che tutti coloro che vi vivono per primi ci credano e si adoperino per cambiarlo. Ma puntare sul Mezzogiorno cosa significa in pratica? Perché questa frase retorica l'abbiamo sentita in bocca a tanti parlamentari di tante legislature appartenenze diverse, Gian Antonio Stella. Cosa significa in pratica? Cosa si potrebbe fare? Allora, vediamo com'era una volta. Per anni c'è stato un investimento sul Mezzogiorno, riassumo due o tre cose. Andrea Atta che va a fare il rettore alla nuova Università di Calabria ad Arcavacata, partendo da tre. Danilo Dolci, che si trasferisce in Sicilia perché crede nel riscatto della Sicilia. Lo stesso Rostagno, deluso dal 68, va a Trapani perché crede di poter dare una mano al riscatto della Sicilia. Magistrati del nord che vanno giù a lavorare, il generale dalla Chiesa che va, cioè, voglio dire, possiamo farne un'infinità, dico, e poi gente del sud che credeva nel sud, e ce n'erano tanti a destra, penso a com'era allora il movimento sociale, tutta la parte legalitaria, duramente contestatrice di un sistema di potere clientelare nel Mezzogiorno che era a destra, e lo stesso a sinistra, il convegno di Palma di Montechiaro sulla mafia organizzato dal PC. Cioè, c'era un'altra tensione morale, certo, anche politica, modelli, gesti simbolicamente forti, a cui anche questi giovani che poi hanno occupato la strada in occasione di episodi di mafia e di 'ndrangheta decisamente gravi in Calabria, a cui questi giovani potevano guardare, c'era una sorta di simbolismo forte che comunque veniva disseminato, e invece oggi non se ne parla più, non si sentono più questo tipo di esempi che, hai ragione tu Gian Antonio Stella, tanto farebbero nella coscienza collettiva. Purtroppo ci piacerebbe parlarne a lungo, perché è un problema importante che riguarda tutti, non solo chi è nato, diciamo così, poi anche questa definizione di sud è anche piuttosto liquida, chi è nato a sud di Roma, a sud della Toscana, non so bene dove porre il confine quando si parla di Mezzogiorno. Grazie per il tuo tempo Gian Antonio Stella. Arrivederci, buona giornata. Gian Antonio Stella, lo ricordiamo, è l'autore della Casta, ma ancora prima di un libro che andrebbe forse letto in tutte le scuole, dalle elementari, Lorda, quando gli albanesi eravamo noi, ed è anche un opinionista del Corriere della Sera. Ancora insieme, 47 minuti trascorsi dopo le 8, oggi lo ricordo per chi si fosse alzato tardi, non trovate Alessandro Milan, ma lo ritroverete lunedì, si è preso una pausa, io sono Irene Zerbini. Andiamo in questa azienda di Pisa che ha deciso di licenziare dei dipendenti per delle responsabilità precise, cioè perché sorpresi con del gasolio sottratto all'azienda dove lavorano. Il giudice del lavoro, Jacqueline Monica Maggi, ha ingiunto però all'azienda con un'ordinanza il reintegro, visto che l'abitudine di rubare gasolio alla ditta era una pratica, diciamo così, in voga, risaputa. Quindi, secondo il giudice, non sanzionabile con il licenziamento, perché l'azienda era al corrente. Questo grosso modo quanto accaduto. Ma entreremo nei dettagli con gli avvocati, uno rappresenta l'azienda e l'altro invece i due lavoratori colti con le mani nel sacco o sul contenitore, nella tanica, se vogliamo essere più precisi. Comincerei con Alberto Battini. Buongiorno. Buongiorno Alberto Battini, lo ricordo, è il legale della Fratelli Neri Lavori Pubblici SPA. Innanzitutto, questa azienda cosa tratta, cosa vende, di cosa si occupa, tanto per capire perché ha a disposizione del gasolio? Sì, dunque, la Fratelli Neri è la società che da sempre è concessionaria del servizio di rimorchio portuale nel porto di Livorno. A questo proposito faccio una precisazione, l'azienda è di Livorno, non di Pisa, ed ha una flotta di rimorchiatori molto moderna, con la quale gestisce, oltre al servizio di rimorchio manovra portuale, anche il servizio antincendio e il servizio di salvataggio e sicurezza in porto. E quindi questa azienda ha questi grandi contenitori, immagino, di carburante, proprio per agevolare queste operazioni delle navi? Sì, diciamo, qui si parla delle casse di gasolio dei rimorchiatori stessi. Ora, ieri in un reportage di Pierangelo Sapegno sulla Stampa si è raccontato appunto questa storia del licenziamento e poi l'ingiunzione di riassunzione. Va precisato quindi che i filoni che stiamo seguendo in questo caso sono due, c'è un'ordinanza che riguarda il reintegro dei ladri, lo dico così tra virgolette, insomma di coloro che sottraevano beni dell'azienda, anche se poi sentiremo gli avvocati degli imputati che non li definiscono assolutamente dei ladri, ma semmai dei lavoratori che si sono macchiati di appropriazione indebita. E poi c'è un filone a parte, pena, che dovrà stabilire invece le responsabilità penali. Come procedono su due livelli queste vicende? Diciamo, il discorso al momento c'è stato un procedimento cautelare per sua natura temporaneo come quello di Reintegra, che è un procedimento finalizzato a definire gli assetti tra i lavoratori e l'azienda durante la pendenza di quello che sarà il processo di merito volto ad accertare con un'istruttoria a cognizione piena se effettivamente il licenziamento è giustificato e legittimo o meno. Quindi, perché sa, avvocato, attuale, noi che non frequentiamo tribunali e aule giudiziarie abbiamo un senso comune a volte un po' banale e pensavamo che chi fosse colto a rubare fosse licenziato con giusta causa, quasi in maniera automatica, e non ci fosse possibilità di... Evidentemente il giudice ha voluto equiparare la situazione di generica conoscibilità di una voce di porto o voce di banchina, quelli che gli inglesi definirebbero i rumors, di un avvenimento che asseritamente si ripete ogni tanto nel tempo per piccole modeste dosi di quantità di gasolio, con la tolleranza da parte dell'azienda di questo tipo di comportamento. Certo, è stato assimilato, visto che altri avevano sottratto gasolio anche in precedenza, quindi l'azienda sapeva, quindi l'azienda tollerava e autorizzava, questo è stato un pochino... L'azienda sapeva, quindi l'azienda tollerava, è evidentemente un passaggio che noi contestiamo, che è assolutamente inaccettabile. L'azienda in questo caso non so se sapeva, forse voci di porto, voci di banchina, voci di popolo erano arrivate in varie fasi del temporale alla dirigenza, ma certamente non erano mai state tollerate. L'azienda aveva sempre fatto le segnalazioni alle pubbliche autorità, alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato in relazione a tutti questi eventi. È proprio tra l'altro nell'ambito di queste segnalazioni che, in seguito ad appostamenti e a controlli ispettivi molto efficienti della Guardia di Finanza, i due soggetti in questione sono stati in flagranza di reato, quindi altrimenti bloccati. Non si spiegherebbe questo. Avvocato, la devo interrompere momentaneamente per dare la parola anche al suo collega, la controparte, diciamo, in questo caso si chiama Giacomo Pasquinucci. Grazie per il suo tempo. È con noi Pasquinucci? Sì, buongiorno. E Giacomo Pasquinucci, buongiorno, è invece il legale dei due dipendenti reintegrati. I suoi clienti sono stati scoperti con questo gasolio, con queste taniche che contenevano, mi corregga se sbaglio, 8 litri di gasolio sottratto all'azienda. 7 litri, se questo può fare la differenza, allora precisiamolo. Direi di no. Allora, cos'è che può fare la differenza? Perché questo non è un furto? Ce lo spieghi, scusi. Allora, il punto è questo, è stato toccato ma non approfondito, direi. Il giudice ha ritenuto provato in causa, insomma, che la Fratelli Neri sapeva che i propri dipendenti prelevavano normalmente, era una prassi che andava avanti da anni, piccole quantità di carburante dai mezzi navali sui quali prestavano il servizio. Ha ritenuto che sapesse ciò il datore di lavoro e quindi, poiché sapeva questo e non è mai intervenuto per sanzionare questi comportamenti, ha fatto ingenerare nei dipendenti, nei lavoratori, la consapevolezza che questi comportamenti, che in generale sono certo sanzionabili disciplinarmente, invece nel caso specifico non lo fossero, e quindi da qui il giudice ha ritenuto di annullare il provvedimento di licenziamento combinato dei lavoratori. Quindi, avvocato, mi dica la verità, è stato sorpreso da questa decisione del giudice? Ma no, sa perché? Ovviamente non era una questione semplice, però insomma il giudice ha deciso, facendo proprio un filone della Corte di Cassazione, quindi, che appunto ritiene che la tolleranza da parte dei datori di lavoro di comportamenti sanzionabili può comportare nei lavoratori la convinzione delle rilevanze disciplinari delle loro condotte. E quindi la sanzione del licenziamento non preceduta da sanzioni di tipo conservativo, si dice, cioè da sanzioni che non comportano appunto l'espulsione dall'azienda, ovviamente la sospensione dal servizio per esempio, ecco, un licenziamento non preceduto da queste sanzioni conservative è un licenziamento illegittimo. Quindi la dottoressa Maggi ha fatto proprio questo indirizzo della Corte di Cassazione, ecco, non è una decisione. Cioè l'azienda avrebbe anche potuto licenziare questi dipendenti se prima li avesse in qualche modo redarguiti ufficialmente per questo comportamento. Allora al termine loro o da altri. Loro o da altri, certo. Dal giorno del licenziamento dei due lavoratori in questione, se altri verranno colti a fare le solite cose, questi sì che potranno essere licenziati, insomma. Il punto è, se il datore di lavoro introduce un'eccezione a quella che è la regola, no? Questa eccezione poi deve essere tolta nella stessa maniera con cui era stata introdotta, ecco. Guardi, Pasquinucci ha introdotto un concetto quantomeno creativo, devo dire la verità, di quello che è veramente il senso comune. Allora, facendo un salto mortale con doppia piroetta, io penso anche a reati di natura sessuale che spesso si compiono in azienda, penso, non so, al palpeggiamento o alla molestia. Se la fanno tutti e il direttore o il presidente dell'azienda non interviene mai, anche perché a volte non si è in grado di cogliere in flagrante le persone, allora di conseguenza in qualche modo si decriminalizza anche l'atto, mi viene da pensare. Non so, il garantismo sul lavoro non può prescindere dal principio di responsabilità, sennò diventa, secondo me, paternalismo e nuoce proprio a chi dovrebbe beneficiare. Comunque, questi sono i fatti, grazie per averli illustrati con noi, poi ognuno trarrà le sue conclusioni. Ringraziamo sia l'avvocato Giacomo Pasquinucci che Alberto Battini per il loro tempo oggi su Radio 24. E si conclude dunque qui 24 Mattino. Tornerà lunedì Alessandro Milan, come di consueto, dalle 7.30 alle 9 per guidarvi nella mattinata, speriamo un po' meno torrida. Irene Zerbini, io l'ho sostituito oggi, vi saluta e vi dà appuntamento alle vacanze d'agosto. Grazie e buona giornata.